mettono la contravenzione. Non l'ho sentito io già. Dopo fatto avanzato, ti voglio entrare io. A chi non le fate entrare allora? Perché l'ha chiamato Simona, l'ha massacrato il televisore, adesso lo massacro per niente. Ma lì che cos'è quando si ferma l'immagine? Di come fa il televisore lo fa, il decoder. C'è il segnale basso, capito? Controllati l'antenna della TV che si viene con l'amplificato. È amplificato il nostro. Fa sempre così, però in sala non lo fa, con quello con l'altro decoder, quello che c'è alla scheda non lo fa. E con l'interattivo non lo fa. Può darsi che c'è i battitori che non vanno bene. Esatto, beh, tutta la parola a bocca. Beh. Sali su, alterna piccata, aumenti la centralina, la metti a palettone. Anche se si segnalizza questa saturazione normale, staccando il decoder, capito? Vedrà che giù vedi tutto bene. Disturbo tutto il palazzo con l'antenna. Il decoder non disturbi col decoder, capito? Quelli analogici disturbi. E cosa ti stavo dicendo? Ma comunque si ha condotto il gruppo tutto completamente, c'è gente che per dire antenna 1 io vado a vederlo normale e altri televisori che non si vedono con decoder che vado a vedere sulla TV normale. Lo so. Adesso c'è un disturbo. No. Scusatemi, no. Sono tutti dei pasticci queste cose qui, per carità. Io avrei preferito che mi dicessero cambiate l'antenna perché quella non va bene per riceverli e con questa antenna qua va tutto ok. Cioè, ma vedi l'antenna e buonanotte, invece lui su coso una di accendi e c'è scritto cambiata la frequenza, risintonizzare tutto, faccio tutto quanto, ritorno il giorno dopo di nuovo altri canali. Oh, non ha male, ti dico si sente. C'è speciale, Natale, se vuoi ti dica, ma me lo fa tutti i giorni. Tutti i giorni sto mettendo canali nuovi. Perché tu non li prendi, altri canali. A me non è fatto, io vedo tutti i canali bene, tranquillo. Capito? C'ho l'antenna normale, non c'ho neanche quella del digitale terrestre, perché vorrebbe cambiata, capito? Io c'ho l'antenna normale, sarà più grande, che è un'antenna grandissima, quando si decide a cambiare l'angelo gliela cambio e via. Ma io c'ho quella per il digitale. Però mi scrive, perché poi è una cosa, non è che c'è l'antenna, perché te lo scrive. Metti per dire canale 5 ha cambiato frequenza, si trova sulla frequenza, risintonizzare tutto, ecco, prendi, risintonizzi tutto, poi il giorno dopo magari c'è un altro canale che lo mettono su altro, perché sono in via di sperimentazione, quindi cambiano frequenza, fanno prove, provine, provette. Magari va, quando viene tutto di oh, a me non lo sto facendo più, me l'ha fatto una volta solo che avevo cambiato le frequenze e adesso vedo tutto bene. E deve essere che ha zone, cosa ne so? Perché certe zone magari riceve più con una frequenza, certe altre con un'altra. Ma a me non solo un canale, più canali. E dipende anche dal decoder, Grazie del decoder, se te lo scrive proprio. Ma molti decoder ne prendono di più di canali, molti ne prendono di meno, dipende. quanto, fosse per me, mi interesserebbe me. Il canale 1 della RAI, antenna 1, perché guardo il telegiornale, videolina e canale 5, non ne guardo altro. Vabbè, siamo tutti uguali, dai. Infatti ho detto per me, non ho detto per tutti, perché io il televisore poco la baio. Addirittura non ce l'hai neanche in camera da letto, quanto ho sentito. No, non mi interessa, in camera da letto da drummi. Non vado a guardare il televisore, io tanto mi trovo a bai denti. Se mi manca il televisore, lo posso anche, per esempio, posso anche non sentirlo, però lo devo vedere. No, io non so così. Io se lo guardo la scuola. Mi guardo, sai che cose, documentari mi piacciono molto, il telegiornale, boh. Film non ti piace? Ma ne ho visto talmente tanti di film che adesso mi sono stufato, non ne posso più vedere. Ah, che affa. Dipende, come c'è la passione uno. Adesso io ho mollato un po', però già mi piacciono sempre, ogni tanto ne prendo uno e me lo guardo. È tutta la serie di Dario Argento. E non solo, c'ho film comici, drammatici, di tutto. Lo stavo dicendo ieri, la prima la sono ricordata. Quell'attore là si chiama Jerry Calà. Jerry Calà, non Galà. Jerry Calà! Io ci ho detto di Falcone, dalle Montagne Verdi. Ieri sera, così. Ma visto l'avevi quel sito a proposito? No, non ho visto niente, no. E tu non mi pare strana, ma me l'avrei subito. Che sito, però? Sessuale. Il mio sito, hai capito bello bene. Ho capito. E poi Pugno non c'è più. Sono qua, ce l'ho anch'io il sito, ogni tanto ci vado, pesco la birra e poi torno. Alice è cotto. Ma va bene, Tavi. Alice, adesso sta la birra che ti fa male. Ma per tuo sito io, la fabbrica della birra. Allora, Heineken, cazzo, proprio la pazza. Amico, tu te ne bevi birra e media al giorno? Bevevo, vuole dire. Ma sta più bevendo, chi non li conveni. Tu non fumare, non ti conviene manco a te. Tu stai zitto, non mangiare, che non puoi mangiare. E allora, dice, Natali, lì, quante te ne bevi, una cassa. Sì, una cassa sì. Adesso una al giorno e basta, solo la notte. Una bottiglia? Sì, ma una bottiglia tutto il giorno. Ah, è diminuito di brutto. Ma io la sto pigliando perché la pastiglia mi butta giù. Allora l'unica cosa, la cosa per poter andare bene sono un bicchiere di birra a pranzo, un bicchiere di birra a cena, quindi sono un bicchiere e mezzo là. E sono a posto, tranquillo. Sì, allora volendo non era nemmeno un vizio là. Se riuscito a farlo così in fretta non era un vizio. Vizio non era vizio, il problema era che quando ti trovavi con le persone giuste e tu già te lo ricordi, quando venivi zitto, l'unica che sapeva quando era a casa che ci uscivano, 15, 20 bottiglie, anche 30, quando abitavi via di zitto che ci uscivano, di birra, un giro tu, un giro quello, un giro quell'altro, e quando arrivavi sopra erano tutti quanti sbronzi. E già me lo riconosci, guarda che era sotto casa tua, io la butto. E appunto. Lo so. diciamo che sono cose che come il fumo, se te le togli da addosso, si fa un grande passo. Io per 8 mesi non ho fumato, poi ho rifumato perché ho visto una persona che fumava e mi ha contagiato. Sì, vabbè, ma io non è che sia un vizio quello che ho. Una volta sì, diciamo quando è a fotografare con uno, è logico che ti dire vabbè, vai giro tu, vai giro quell'altro, non lo dici più. E così sono le sigarette tra di voi, un'altra la offri tu, la offri quella, poi sei fumato un pacchetto, te le fumi te. È vero, è vero. Per dire, mi conosciamo con da Pierpaolo, un giro fa uno, un giro fa l'altro, un giro fa l'altro, e stavo a fumigare tutto. È brutto, mi non è fumo dei vestiti, è veramente brutto, fa schifo proprio. Sì, però fa per abitudine alla fine, no? Magari una sigaretta va bene dopo il caffè, cose, fa piacere, però poi diventa un'abitudine, basta, quando ne fumi 20 sigarette anche in una serata. Sì, io lo so, io per la base non fumo, ma sono gli altri che se fumano non ce la fanno a smettere, è molto molto difficile, capito? Avanti, Natali. E chi è che vuole scommettere con me? Che tu aspetti di fumare? Oh. Che c'è di valore. Guarda che non sono come quello l'altra volta che avevi fatto la scommessa e ti ha dato un baracchino. Hai deciso di fumare per un mese, giusto giusto. Dopo che hai avuto il baracchino poi hai ricominciato. Perché sono stato pizzaio, perché io smetto quando voglio. Non sai come potessi smettere, la verità. Un molto concetto a te. Basta buscare una ragazza che non fuma da me, che ti chiede 6 giorni a... E cosa? Vedrai che tu smetti di fumare, perché se, lì non te, se tu fumi lì non trerà. Solo così. Saresti tranquillo. Allora sì che smetti di fumare. Oh, ce l'avevo una ragazza che non fumava e che non voleva che io fumassi. E fumavo con una pece. Ma se lo fai sei fregato, dice, se lo puoi smetti di fumare, se no non te le do. Ma non gliele darò anch'io. Bisogna avere se lo vuole fare. Ma io mi sticavo quando ti dà una viagana e dico, no, ora no, ma giugana. Dai la bistecca. Con te stesso la scommessa, la vinci, se la smetti. Cazzo, ma ci deve essere una sfida. Se io non vinco niente, chi me lo fa fare? Un palloncino. Davide, poi quando abiti le vicino a me, facciamo la scommessa, dai. Mi serve una cenobia. Che cos'è? Già lo so io. Vai su internet e ce n'è uno in vendita, mi pare 2,80, sì, a seconda mano prossimi nuovi. No, io lo devo vincere per scommessa, cosa che sta comprando non mi convenga. Ho speso troppo in questo periodo. E cosa vorresti alludere? Tanto compreso a me che mi voleva le 9. E cosa ha capito che gli volevo fottere le 9, perché io smetto di fumare veramente, lui mi dava le 9, capito? Mi do scommesse con te stesso, vediamo se vinci tu o loro. Ma se non vinco niente non mi stimola a smettere. Cazzo, un pacchetto di quelli in coso, in ferro, come quello di Antonio di Marlboro. Comprato. Light strike. Sì, vabbè, io mi ho preso le Marlboro, lo accendo. Almeno me lo uso per mettere il tipo di pacchetto, le cose. Perché in alluminio me ne devo comprare un altro. Dove lo possiamo mettere? Le viti, le cose, capito? Sono belle quelle scatolette. Ma costano lo stesso o costano di più? Lo stesso costano. Preciso. Appogato. Se sapevo me l'avrei preso anch'io così. Ma le multifilter però che sono più belle. Anche le Marlboro Light ci sono. Oh già. Allora facciamo una scommessa. Hai visto il telefonino mio? Ascolti che c'ho le musiche nel mio telefonino, giusto? Ascolti che io te lo faccio funzionare con quel cubo che c'è in magazzino. Che cosa? Telefonino mio, senti la musica come un MP3. Ho capito. Tu lo attacchi al coso dell'auricolare. Però ci vuole anche un'altra cosa. E cosa ci vuole? Ah, il riduttore da monastero. Chiaro. Gioco drop. Aiuto, che se lo scommette qualcosa che smetto di fumare a Fangualla. Fangualla. Dove c'è cazzo che ti diamo? Ma domani mattina cosa devi fare, Tattarino? Io? Non lo so. Mi deve avere di oggi un manico di bando. Sto giornando tornando, sono... Mamma mia. Io domani devo andare a fare una visita, poi sono libero tutto il giorno. Allora fatti sentire che io ho contatto con la persona. E lei? Andava. Sei libero che non sta facendo qualcosa, lo facciamo, quella situazione. Oh, io adesso mi è scomparsa anche l'icona degli uomini dove si cliccava per entrare su Messenger e roba del genere. Oh, ogni tanto si accende l'affare e si accende la sirena. Virus ci scrive. E ha detto invece io ho quittato funzione, entro nel menu, la faccio partire a CD-ROM e ti cancelleggio tutto. E vabbè, bisogna saperlo fare, perché io la verità non ne ho mai fatto e non lo so fare. Non ho mai ripristinato tutto. Solitamente ce lo faceva Massimo, ma questa volta ha provato e non ci è riuscito. Non ci è riuscito manco lui a togliere il virus. Abbiamo dato il sistema, tutto quanto, ma non è riuscito. E vabbè, pazienza, è un casino, solo che se entri in Messenger ti entra di nuovo. Quanto in Messenger stai entrando? In MSN? No, io quando vado a Google, io non c'entro in quei così, io vado a Google direttamente. Capito. Io Messenger non ce l'ho neanche, c'ho solo il Messenger è quello per chattare, però il MSN è Nisba, non ne ho messo. No, cosa mi fai di MSN? Niente, basta entrare in qualsiasi motore di ricerca normale e stare attento soprattutto a quali siti visiti, se no ti entra nel virus a gran carriera. E anche se ti visito, vado su eBay, vado su queste cose qua, però non è che vado su così. Non so cosa succedeva da poco. Praticamente stavi chattando su un MSN, di colpo ti appariva un sito porno. Quindi sono pieni di virus. Senza cercarlo, Minatari, ti appariva da solo. Andavi a cancellare e non cancellava. Perché ci vogliono antivirus e antispam. E adesso, ma poi entrano in collisione con altri programmi. L'abbiamo avuto anche noi, antispam. Però entrava in collisione con altri programmi. erano pesanti quelli che avevamo. Sì, erano dei buoni antivirus, ma pesanti per altri programmi, ti rallentavano belle cose. Già lo so, bisogna mettere antivirus dei geni e buoni, però, capito? No, Norton che è pesantissimo, mamma mia, fa schifo. Poi già il processore tuo è più scadente che esista. Io dico, se gli metto quello che ho io qua, quello del 1700, il Pentium 1700 che ho io qua, il processore, è più veloce di Midori. Qui era una scheggia prima del telefono che si era rallentato, poi da quando ci sono questi virus e queste cose qua, poi Manuela scarica, fa tutto quanto, fotografia, questo e quell'altro, avvempi tutto il computer, tutta la memoria. Per quello che è lento, ma se no il mio è un 2006, è a livello del Pentium 4, anzi, in programmi di ufficio è molto più veloce. Qua c'è quello che c'è tu, è proprio il più scadente, quello che c'è tu. Non può essere a livello del 24, questo sono sicuro che quel processore che ho io è più veloce del tubo. Il dottore qua, addirittura c'ha un AMD anche mio nipote, beh, mezza zero le volte con me. Questo qui era un bel veloce, ma veloce però, era una scheggia come, non la paginava prima, non era guardare, come giravi, tic, subito appariva. Poi hanno cominciato a scaricare roba, eccetera, eccetera, e ha rallentato un bel. E manca il ruccio, guarda, io lo gioco, piena di mondetta, tutto da dischi, e va, io lo so, perché mio nipote, quello grande, fa così e non cammina manca il ruccio. Quello del piccolino invece è come il mio, solo che è più grande, c'è un 24-3000 ruti ed è una scheggia. Gliel'ho provata troppo perché se gli era bloccato anche a lui, però è stata colpa di Angelo, che ha fatto entrare il virus. Gliel'ho formattato e gli ho ripiattato tutto. E cos'è entrato nei siti porno? No, ha fatto una manovra che non doveva fare, si è pieno il computer bloccato, brutto. Si è bloccato, io l'ho preso, gli ho formattato tutto e gli ho reinstallato il sistema operativo e vari programmi che gli servivano a me nipote. Gli ho messo internet, la posta, tutte quelle cose lì là, che gli servivano. Se veniva da me a farsi i compiti di scuola perché col fratello non vanno d'accordo e si adduffavano, il computer all'opera gliel'ho costruito uno. Ed è più potente di chi sono umani, compreso. È più potente pure del mio. Ah, quello di Alessandro, un 3000 rotti, un 24 3000 rotti. No, ma il mio non mi sembra che sia un Celeron. Cosa c'è di altro? C'è il Celeron, il Pentium e poi? Il Duron dell'AMD. Bisogna vedere che processore ha, però il Celeron è il più scadente che c'è. E poi non me lo ricordo. Però ci aveva detto, allora chi ce l'ha fatto è uno che è un professore di informatica che gli assembla lui, si fa arrivare la casa vuota e gli assembla come li vuole. Mi ha detto, io ho due tipi di, faccio due, tre, quattro tipi di ROM, però vi consiglio questo per casa, o questo oppure il Pentium 4 che sono dei migliori. Ha detto, però questo qui è leggermente più forte nei programmi d'ufficio, più forte del 21.4, per il resto sono alla pari e costa un po' meno. Ci veniva mi pare 980 uno e l'altro mi pare 1000 euro. Ma in questo 502 ti porto un 24 pauroso, compreso di tutto. Io lo so, ma a me non me ne ha fatti più nulla il computer, Atari. Sinceramente parlando non mi piace, no? Entro solo per cose che mi fanno comodo, roba che sto cercando, tipo io di Bussi. Sono entrato nel sito degli acquari e quello mi è piaciuto davvero. Come piazzare un acquario, come gestirlo, tutti i tipi di pesci, sia marini che normali, piante, di tutto c'è. E di quello mi interessa. Tutto c'è, vendono pesci, vendono piante, e tutto. Sali, dimmi però dov'è questo negozio che vende animali, che ci voglio andare. Vicino alla piazzetta, però non lo trovi se non sai dove andare. Va, andiamo assieme intanto. Capito. Che devo cercare una cosa se ce l'ha. Un attrattivo per il gatto. Gama gama. Andiamo e vediamo un po'. Io. E devo comprare anche il mio condizionatore per l'acqua del mio ufficio. E lì ce l'ho tutto. Ma chi sono, ragazzi? Sì, c'è anche gente grande. È una struttura enorme. Ma lo sai che gli è morto il pappagallo degli altri dal freddo? A Alessandro. Mi ha detto stasera che... è morto. Allora? Come mai? L'ha lasciato fuori. L'Alfredo, chi vuole da fare di Ranotti? A me mamma mi l'ha detto subito, mi, come ti comincia con il gatto a Tappari. E infatti mi sono di lusso, ne ho due scoppi io. La faccio le pari pappagalli, non lo sai, a fianco a me c'è questo qui, che non so quanti pappagalli di tutte le razze ne ha, eppure l'ho, qualche giorno l'ho contatto, mi faccio dei consigli di lusso da quello lì. Prima della campagna mia ce n'è uno che, ma non sai quanti ce li c'ha questo qui. Li ho visti, ce le voliere. Ce li ho visti, sì. Infatti, bisogna che vado a trovarlo. Ma conosci? No, io no. Mio fratello lo conosce. E magari te ne regala pure. C'ha pappagalli come tu, le coccolite c'ha. Qui è dove me li metto? Mi devo fare una colliera per i miei, fatti un conto. Allora, la rete me la bocca. Ma sai cosa è bello fare? Io l'ho visto in campagna di questo amico mio, però c'aveva i diamantini invece che i pappagalli. Aveva una foliera enorme, grande, grande, c'era l'albero piantato al centro e i nidi sopra l'albero. Facevano i figli tutto qua, i diamantini solitamente sono cigni tropicali, non ne fanno di nido. Invece questi qui facevano anche le uova. Figurati. Solo che qua in inverno fa un bel freddo, capito, là è un macello, a lasciarli fuori non fa. Eh beh, ma la voliera deve essere fissa, non è che la fai nubile. Ma qua fa la neve, c'è un bel freddo, qua, secondo che ce ne sono due bambini in giro di subito. Qua fa un bel freddo, capito? Beh, la facciamo bella la bodega, quello lì. Si può fare anche così, la metti sotto la tettoia, già è riparato lì. Ma solo che c'è freddo. Vabbè, il bus da fare un aereo. Una volta, Natalì, una volta che viene il buio, prendete il buco di Trento. Cosa ci vuole? Il vento un dì, non devi toccare il vento e niente, sennò va bene freddo. Dentro casa ti riponi di tutti. Sì, una foliera dentro casa. La metti via all'entrata, Natalì. E poi c'era tutto di fuori la mattina, no? Sì, lo so. Ma in inverno non li puoi togliere fuori, no? Che fa un freddo qua, tutti sciari. Lo so, senti in alto lì. Ma quando fa la neve, come fate a salire quella salita? E io già salgo. Che della bassa all'asta. allora che hanno fatto 10.000 macchine, però se non ci sai camminare sulla neve non ci sali, in quella salita io da salgo lo stesso, ma bisogna avere metterlo. Non so, ma quando c'è ghiaccio non attacca, ne se vai a mettere dove se vai a mettere. Quando c'è quella neve sopra e sotto c'è ghiaccio esecutivo. E gli altri mattessi, al guardo di manzana, vedrei tutto che ha fatto una negliata. Certo che è abbastanza ripida quella salita. Lo so. La macchina è una impianta, mamma mia. Lo so. Una volta ho fatto il contrario, sono sceso da via Bonorva lì vicino a casa, no? Per andare verso l'edicola lì, e scalo di marcia, la macchina rallenta, vedo un camion passare davanti, tocco appena appena il freno, ragazzi, si gira la macchina, ma come l'aiuto della sterzata, l'ho fatta girare su se stesso. Sai che tu me la giubi Savea? Ha giubilato il retrofront, vai, oggi non vado. Te credo. Io, tu pensa, sono sceso in montagna a Bono, con la neve, senza catene, senza niente, con l'opera record di Babbo. Sassa di Bono, un'ora, non devo né gridi. Eppure sono salito e sceso, perché il paese è sotto la montagna, e sono sceso in montagna io. È pericoloso però senza catene quando c'è la neve. La macchina non ti risponde, anche se tu sai guidare, tu gli dai la stessa una parte e va dritta. E infatti vado gli attici di un burrone, loro tanto di tisetti, e sono dovuto andare a recuperare lui, ovvero, non me la chiudi. Cioè, la gente non sa camminare in macchina, non deve andare. Neanche Angelo, mi Angelo sa quanto è pericoloso. Marini ha giocato barà, ha chiamato la dici, guarda, morto mi sono visto. Si è fatto barà. C'è un patto, uno non sa, quando non sa guidare non si deve neanche mettere al volante. Capito? Roia. Quello lì è solo patto e basta. Angelo corre in macchina. Sì, ma è un patto. No, non c'è buono a guidare. Se poco a poco si trova con la mente col ghiaccio, è fuggito. Vabbè, quello lì nessuno di noi è abituato, perché da queste parti è difficile che nevichi o che, ma che ci sia ghiaccio. Però uno si arrangia pure nel momento, cerca sempre di arrangiarsi, di avere delle piccole nozioni per arrangiarsi e uscirne tranquillo, là. Sempre vedi che non puoi continuare, ti fermi, poco di va. Avanti per parte. Tony. Mi sto ascoltando. Ascolta, parla pure qualche volta. Lo sai che mi sta avendo la bioccamento? Davvero, questo effetto ti facciamo. Ti hai contagiato, già. Ridi. No, poi, che c'è la zero vende. Ma sai cos'è? Molte volte, quando adesso, per esempio, me lo metto sulla sede, mi sono corricchiato. E quando sento un po' di calore, e sento a voi con la radio un po' bassa, mi viene la bianca. Che sappiamo come per concederti il sonno, va? Piglia la biglivona, mi ha detto tipo una femmina che ti caldi in chi vi lo detto, casa dei rom e tu. Quella lì è bella, Va, ho la crocella, sì. Piglia. Antonio. Quella lì ci vuole sempre, la vuoi, là? No, sempre no. Lontano dai parti, le donne lontano dai parti di mia nonna. sintomo digestivo. E addirittura da. È malo mi natalino, adesso se ci sono femministi all'ascolto vado a picchiarlo. Sì, ma io sto dicendo, da un lato ma vuole lontano dai parti, perché durante i parti da fastidio. Davvero? Sì, danno fastidio, stanno sempre parlando, rompendo le scatole, e uno quando mangia deve essere tranquillo, vero già? Ehi, che ti ascolta qualche donna, ui. Domani non esci sano. Però sto dicendo cose giuste. Cosa mia mamma lo diceva veramente, le donne lontano dai parti. Oppure diceva, allora, aspetta cosa dicevano. Chi parla e fischia a letto non è perfetto. Sì. E allora? Si discute pure a letto, non è che per forza devi fare altre cose. No, a letto serve per dormire e boom. Non è letto. È un uomo a letto, io perlomeno dormo a letto. Pittina. A meno che non abbia ospiti, allora posso fare qualcos'altro. Vero? Io parlo anche. Molte volte con mia moglie parliamo a letto. Sono i minuti che c'è per stare insieme e cose, quindi parlo. Discuti come è stata la giornata, parli dei bambini, eccetera, eccetera. Quello lì si fa fra marito e moglie. Giustamente. Certamente che sì. Natalino mica può parlare col baracchino. Non mi sia voluto parlare al baracchino quando uno è con il gatto. A me mi piace questo vizio. Passa tantissimo. Anche a me. Oh, 2-1 palincente. Vabbè, anch'io ce l'ho questo vizio, adesso sono colicato per esempio. Ma io da quando me lo sono messo, mi hanno tutti condannato. E poi l'hanno fatto tutti i gatti a pulire il baracchino vicino. E anche a me mi hanno detto qualcosa sempre. Perché io quando lavoro sempre colicato, capito? Più delle volte. A me la scrivania mica non piaceva. Scrivania va bene di ciò. Io me la domenica quando parlo la mattina mi siedo sul letto, perché per letto lo puoi usare anche come sedia, capito? Ti siedi e parli tranquillamente. E uso l'altro, in modo che giri un po'. Però è comodo il letto perché se si stacca ti ritrai e allo stesso tempo puoi parlare, puoi fare le cose una volta. E infatti. Io già ho il baracchino sul comodino e parlo, non c'è problema. Ma io ho sempre parlato da colicato, capito? Anche quando stavo in via Pietronica ce l'avevo la stazione dove in camera mia, capito? E c'era il letto lì, vicino, e quindi allungavo il braccio e parlavo. Io invece non c'ho bisogno manco di allungare il braccio perché allungo il filo e parlo. Il microfono me lo porto vicino alla bocca perché è un palmare, per cui non ho bisogno manco di allungare il braccio. E anche quella sarebbe un'idea, infatti Giraira nel bongo del palmare e questo qui vi faccio l'attacco speciale per quello piccolino. E allora, quando vi taggo il braccio detta? Di busta, invece è così, ti avvicini il microfono e parli tranquillamente. Infatti, va fatta quel palmare. Convinto. Riprendi, Antonio. Eppure io sono un barocco ricatto. Comunque non c'è altra cosa che fare un discorso. E quando sei coricato è anche... Sì, quando sei rilassato, tranquillo, non ci sono avanti. Se devi parlare del cosiddetto, è lì che se avessi i bambini avanti. Certamente che sì. Secondo me... Soprattutto quando si sta parlando di certe cose al baracchino, non è giocato a darlo ai bambini mentre lo hai capito. Il bambino non deve parlare così. Sì, quello sì, sì. Però quando ci dicono cose un po', hai capito? Meglio tenere sempre lontane. Ah, non ti avevo capito, sì sì. Diciamo che bisogna evitare di dire le cose così al mare, che se ci sono lo sento, sarebbe la soluzione migliore. Vabbè, comunque, non è neanche un oggetto che posso dire che è un genitore, sì, sì. Ma quando il bambino è da solo non è un oggetto da dare a bambini, qualsiasi parecchio che sia. D'accordo con te. Ma una volta che Marco l'ha preso è perché io sono uscito magari per andare in bagno, lui ne ha approfittato, è entrato dentro e visto che era acceso l'ha approfittato subito. Sì, quello lì sì, però dico quando non c'è il padre di vicino, quando non c'è nessuno in casa, non bisogna mai lasciarlo, perché se è come chi ti attacca magari. E poi magari dici tu per gli altri anche, può succedere, io so che è già successo. Non lo so, però hai ragione. Ma tu cosa fai? Ne stacchi tutto le stacchi stesso? Quando lo spento. Quando non ci sei zitti. No, io stacco solo, spengo l'apparato, l'alimentatore, la ciabatta, stacco. Fai bene, non magari si mettono a toccare anche. Oh, ma Marco lo sa, più o meno lo sa, come si accende e come tutto. E i bambini, cioè, senza farli vedere una cosa e apprendono subito. Tu puoi immaginare che io quando ero proprio piccolo, ma adesso non sono salito dalla culla. Piano piano, proprio acceso lo stereo, ovviamente sullo stereo grandente, ed ero io che l'ho acceso. Lo so, riprendi per pan. Guarda, non lo so. Bene, carità. Beh, visto che sono anch'io quello palmare, Va bene. Va bene, sì. Questo è normale. Sì. Tra l'altro questo qua. L'originale suo. Va bene. È chiaro. Lo sta usando l'originale, il microfono originale suo. Giusto che oggi non hai lavorato, gara. Io non ci ho pensato. Ma stamattina tardi, stavo rientrando alla moto. E stavano parlando. Io purtroppo ero sempre in giro, ce l'avevo il baracchino in macchina, ma non lo potevo tenere perché stavo... Sarebbe scendendo dalla BM qui a Marsella. Ti vedrei domani. Mi hanno fatto una proposta se voglio entrare a fare Barrancetto. pagato. Mai dopo. E te lo dico verticale. A fine anno si ritirano l'argent. Sì, già lo so. Però gli ho detto che forse non andava bene. Perché devi fare dei turni dalle 8 alle 2 e poi la sera mi pare dalle 5 alle 8. A tutti i giorni? No, no, quando dalla disponibilità, però più sono e più sono pagato dalla regione. Cabretto. La sede, tutto quanto, eh. Una bella sede, non dici da io. Ma quelli di qui o di là? Quelli di là. Ah, grazie. Che conosco gente, capito? Esatto. Ma anche servizio scolastico. Nei passaggi pedonali, fa la traversa ai bambini, tutto qua. E invece qua no, qua. Le pettorine c'è scritto servizio scolastico barracini, servizio scolastico, fanno la paletta tutto quanto, fermano la gente, le macchine, fanno attraversare i bambini. Io sto qui con una linea da portare il compito lì, adesso qua no. Sì, fanno il giuramento, lo sai? È un po' posto, no? Il giuramento è... mi pare che abbiano anche le armi. Sì, sì, le possono ottenere, è giusto. Io la faccio. Si fanno il permesso, capito? Questo che me l'ha detto c'è il porto d'armi, me l'ha già detto. E lui è entrato tranquillamente, sta bene, se ne fa un po' di tutti, anche di vedetta a fare. E fanno anche un figlio, già lo so. Ma sono abbastanza... c'è che ci sono anche molte ragazze. Io, dove lo so io? Se tu che lo so io, è chi dà... come fai ad andare? Quindi potrei fare il mio punto della parte. Oh già, mi stavo andando un minuto, devo andare a cambiare l'acqua agli olive. Va bene, vai più. Capito, è un casino perché è lontano. Beh. E qua c'è il mio compare, non lo so se lo sta ancora facendo. Ma c'era mio compare l'ha sempre fatto qua, in quelli di qua per me. Dimmi la tariffa. In quelli di qua c'è mio compare, non so se ci sia ancora, ma l'ha sempre fatto. Quando non era di servizio andava lì, e faceva servizio lì. Ma tu mai fatto la barraccia? No, no, oh. E c'è anche un amico che lo fa qua. Però io non sono mai entrato la vita. Per te sarebbe più facile perché tu c'è il porto d'arte. Sì, ma è carito. Mica ha preso di per rinnovare un porto d'arte. Magari ti danno loro, cosa c'è? Ah, si fanno il permesso a loro. Poi si può usare il fucile. E allora, quando sei in servizio la puoi usare l'arma, se no no. Ma solo in caso di sei in servizio la puoi usare. Capito? Adesso parlate col muro e metto la porta. importante e non vi lascio più parlare. Così parlate col muro. E io tengo e tu ti mangi un brodino di mammo. Che non sai manco parlare, vedi che parli male. Non sai manco parlare. Io so parlare italiano, francese e inglese. E io però spengo se tu metti la portante e tu ti mangi un brodino di mammo. Io ti metto la portante proprio a te. E io poi ti faccio parlare con muro, ti faccio schiaffare, hai capito bello bene? Comunque sei tutto quanto arrughito, fa bidenti sia il francese, l'italiano che l'inglese, sei sempre arrughito. Ecco dove entrava solo arrughito, ma quasi muro che si fa vedere il riso, solo arrughito. A me mi pare il svetto nell'andare. E manchetti. Ma si dice, oh, arrughito. Che mi devo fare come quello della barzelletta? Mi devo mettere il bastone. Io non più. Me non mi fate parlare male. Scorrevole. Se non puoi sono scorrevole. Fatti gli scusi. Mica vi ho sentito poco fa. Stavate facendo la morire, eh? Non c'entro. Mica vi sto controllando, eh? Bisogna fare da bravi. Bisogna fare da bravi, sì. Il nemico ascolta. Io che se non ti ascolta veramente. Tu pure lo braccio elastico vai. Ogni altro si abbascia la voce. Lascia ma perché a me. Ma a me si dice. Ehi, a te e a... a Gianni. Guarda che c'è un microfono normale adesso. Perché mi ha dato l'idea Gianni di mettere il microfono normale, capito? Così non devo allungare il braccio. Ma adesso tu vuoi fare la fatica con questo braccio qua che viene, a lui cosa gli interessa? È vero, è vero. È una cosa lunga. Questo è Gianni. Non si va di mani fatti su. Sai chi viene? Chi è? Natalia, prova a metterti il microfono che c'ha l'autoparlantino con la cuffietta direttamente. Quello è bello, sì, con lo VOC. Visto, già ne dice una, io ne dico un'altra. Però non vai, vista. Perché non ce l'ho. Semplice. Mi sa che mi trombo. E beh, non riprenderò il giro, sono tornato. Tanto ripetela tu, no, siamo a 3 ore qua. Ripetela, dici qualche cosa. Sei cosa io oggi ho lavorato. Lavorato oggi era lunedì e c'è ancora il lavoro. Non è capace. Ma c'è la mattina, stasera che non sento andare. Ma che fine ha fatto? Sta a pescare. Ma da stamattina, stasera, sempre a pescare, si sarebbe sentito. E magari sta guardando il grande fratello, Aviaia. Poi questo Antonio ce l'ha sempre con quell'attore, con Jerry Galà. Adesso è un giro che è. Jerry Galà! Mi sono sbagliato, dai, perché non sono ricordato anche così. Bastardo dentro la tariffa. E giro! Sì, più bravo di me, non vinne! Lo passato, no? che bastardo. Perché come si chiama? Non si chiama Jerry Calà? No. E come si chiama? Jerry Calà. Calà? Ah, portami il film, la cassetta del film. Io ce li hai lì, basta prenderla. Aspetta, ma allora hai detto Calà? Yes. Invece che con la Golf, perché anche me l'ha detto con la Golf. Yes, si chiama Jerry Calà, non Galà, con la Charlie, non con la Golf. Si brucia Gaga. Controlla, controlla. Dico ci ascolta, no. E gare. Il nemico ti ascolta, vai da bravo Anthony. Esatto, con tutte le vocali e tutte le cose al posto di... Jerry Calà si chiama. Come si chiama? Jerry Calà. Con l'accento? Senza l'accento? No, c'è l'accento, c'è l'accento. Gianni? Non me lo ricordo quello, ma non era quello il problema era che lui l'ha detto con la G invece che con la C, l'accento non me lo ricordo se c'è o no, però si chiama Calà. Ma per Calà ci dovrebbe essere l'accento, o Calà o Calà, perché se no sarebbe Calà. E infatti? Jerry Calà con l'accento! Con l'accento sulla A. Comunque c'è, si chiama Calà, non Galà, era quello il problema, della G e della C. È la stessa storia della Sprite. Sempre un vizio a Sprite, mamma mia, no. Già. E ma la stessa storia dei campi. Questo branco poi. Perché tu ti dovevi pinzellare. No, la figlia si dice pinzellare. Pinzellare, a furia di pinzellare poi ti viene il grampo al braccio. No, il granco, non il grampo. Il granco si dice. Ma tu l'hai chiamato grampo. Grampo. Invece che crampo ha detto grampo. Non è così. A chi sta sapendo si dice grampo, quindi non è sbagliato, caro lì. Ma te li fa vedere l'italiano, cosa si sta dicendo, cosa metto sta sedice? Se lo fa vedere, metto l'italiano e metto sta sedice, lei è sbagliato il buco. E tu sei un bastardo, io mi ha detto solo che tu sei un bastardo dentro. Vabbè, sono un bastardo ma l'hai sempre sbagliato. Sempre bastardo a 360 gradi, sì. Cado di girarlo, il sassarese, l'italiano. E mangiando il buon attali, cado il bandino, non mi piace di giro. Fai la risata, Anto. Mi viene. Ah, un bellissimo a farla come trovo San Antonio, balle tuyo. Non mi viene, no? Ci vuole qualcosa. Mi aveva di un cuore brutto. Oh, manca sacco. Ma ne ha sentito un'altra oggi? Hola. Un'altra oggi ne ho sentito, uia. Villoga, ci fai stare in pensiero o in ansia? Secondo te... Come si chiama il coso che ha la mela sopra? Quello che dopo rompere lo specchio all'albero. Guglielmo Hotel. Cazzo metta Guglielmo Hotel. E in caso che è cavata. E raspo dovrebbe essere. Tu hai detto come si chiama quello che c'ha la mela che... che tira con l'arco la mela, quello lì stavi dicendo. Quello che c'è la mela sopra, raspo mi pare. La mela sopra. Ehi, Natalì. quello che ci butti col tossolo, quello che rimane sopra, si chiama raspe. E beh, per fatto rimasti sì. No, stato, sento che è stato il cilindro, come si chiama? Io ho detto raspo, che mi ricordo. Tu invece come hai sentito? Raspo. Il piccio. Il piccio. Il piccio. Ma in che lingua è? Dipende da chi l'ha sentito, ma la gente di qua. Eia, il fatto è che l'altro interlocutore ci ha messo mezz'ora per capirlo. Cazzo, non usate la sfottosa. Come lo chiami per farlo lì? E come lo chiamo? Gli altri offro, si chiama Tiraggio. Raspo, è quello che c'è attaccato, si chiama torsolo. Il torsolo è quello che rimane all'ultimo, e avanti. Passo basso, ciao. Io ti sento, basso ma non ti fai sentire. È proprio. Manco 5, sì. Chi è la già? Gianni Ditti. E perché sta facendo così? Perché l'ha messo a 300 mili l'apparato. Basso basta uscendo, però usciva. Sì, vabbè, quello sì. Devo fare una prova, abbassarlo così, a vedere se usciva lo stesso. Certo che... Diciamo, se non lo vuole disturbare può farlo, magari se sei nella stessa città, nel stesso paese, lo puoi fare. Non lo puoi fare dove ci sono persone che rompono, che non hanno contatto, quello sì. Epa. Oh, Quindi per paura ti stai facendo ascolto. Non so quale argomento gli stavo dicendo questo qua, dipende di che questa mela che aveva, la legava con sparo a questo piccione. Il piccione. E poi la mangiava, non so quando, che era di primavera, si staccava la verde. Ora ci ho capito un cavolo, comunque questa mela c'è il picciolo. Buonasera. E vabbè, là. È un divertimento controllare, ma è controllato bene i genitali, controllato se si dice calà o galà. Che cosa? È controllato nella cassetta se si dice galà o calà. Calà. Meno male, no? Io ero sicuro. Allora. Ehi. Quando ti arrivo il segnale, concerto? Ola. Ehi, bassissimo, sì. Fai vedere. Ola. Mi senti? Natali, mi senti? Sì, il grande fragello, non credo, io già me lo guardo. Oh, io ho già visto troppe volte e basta adesso. Ho visto le presentazioni, c'è una bella dottoressa, una dottoressa in gamba, giovane, una bella donna. Fammi parlare di dottoressa e mezzo infermiere che non le posso vedere. No, io ce l'avevo una quasi dottoressa in Italia. Se a me mi fanno schifo non ci posso fare niente. Come mai? Ah, l'infermiere, ma l'autore se... che cosa c'è contro le dottoresse? Che fanno schifo ugualmente. No, a me no. Anzi, nelle infermiere delle dottoresse, basta che siano carine. Ma non faccio niente, sono due figli. Ah, va bene, con le dottoresse di infermiere non tarito, per pazzo. L'ho fatta troppe punture. Sì, anche altre cose mi hanno fatto. Buonanotte, buonanotte a tutti belli e brutti. Buonanotte Pierpa. Ciao Pierpa. Antoine. Dimmi. Cazzo stai guardando, grande flagello. Ma che è il televisore? Stavo provando questo portatile a vedere. Ma Natalino gli arrivo. Un Natalino sì. Già lo sento. Ma col gommino sì. Oh, negativo, anche una grande. No, non stavo guardando i batteri, perché stavo guardando quando stavo uscendo il sito. Lo stavo provando così. Comunque va bene, dai. Sì, sì, una bella radio. Sette volte. Cazzo, vabbè, la cosa fa parlare. Non so baragoni, è come segnare. Beh, certo. Vabbè dai, mi guardo un po' di più, tanto non venisci un carozzo. Ci sentiamo adesso insieme là. Ciao ciao Natali, buonanotte. Mi pare che anch'io ando e mi prendo una sigaretta e mi vado al televisore. Tanto. Ci siamo rimasti io solo e Antonio. Domani deve andare anche a lavoro Antonio, quindi tra poco la prendi. Allora, ciao, belli e brutti e anche a quelli che ascoltano e non entrano. Ciao. Ciao Natalino. Ciao, buonanotte, buonanotte. Non c'è, non sto uscendo. Così ha sentito il television. Se guarda un grande flagello. Thank you. Grazie, grazie. Buonasera a tutti.